Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Le sue campagne sono entrate nella storia e nel costume degli italiani. Fanno ormai parte dell'immaginario collettivo e su molte tematiche sociali hanno contribuito a sensibilizzare e a creare cultura condivisa, arricchendo di nuovi stimoli anche la comunicazione commerciale. Stiamo parlando di Pubblicità Progresso, la fondazione che da 50 anni promuove la comunicazione sociale in Italia. In questi giorni ha lanciato la sua nuova campagna su un tema fondamentale in questo periodo di emergenza, quello della coesione sociale. Ne parliamo tra pochissimo. Vi raccontiamo anche la storia del food delivery sostenibile pensato per i piccoli centri urbani. E poi focus sui trend dedicato agli spot cult di questo Natale, mai come quest'anno sotto i riflettori. Late night till morning comes. Ci sono distanze fisiche da rispettare, altre da colmare. Sta a noi fare il primo passo. Pubblicità Progresso, da 50 anni al servizio della coesione sociale. She comes over to me, shakes her hand and kisses both my hands and feet. Lo sentite in sottofondo, lo trovate sulla nostra pagina Facebook, è lo spot della nuova campagna 2020-2021 di Pubblicità Progresso, fondazione per la comunicazione sociale. Primo passo, l'hashtag della campagna, il tema è quello della coesione sociale, così alla presentazione dello spot e del nuovo logo della fondazione il presidente Andrea Farinè e il suo vice Gianni Milesi. C'è un indice che misura il grado di sperequazione socio-economica e dal 2008 in avanti l'Italia si sta fratturando. C'è l'1% più agiato della nostra popolazione che detiene una ricchezza sempre più elevata, un patrimonio finanziario immobiliare netto significativo. Siamo le famiglie più patrimonializzate al mondo e una grande parte del ceto medio che sta soffrendo. Il numero di persone che entrano in disagio economico, in disagio alimentare, continua a crescere. Le difficoltà economiche aumentano le diseguaglianze. La povertà accentua le fragilità e le solitudini e le categorie fragili pagano cara la pandemia. Noi abbiamo bisogno di costruire fiducia. Se non c'è fiducia, c'è paura e questo è il sentimento che stiamo vivendo. Come si accresce la fiducia, quindi? Le relazioni basate sulla logica del dono sono un vettore di fiducia. Quindi siamo arrivati a questa campagna basata appunto su questa logica non di scambio ma di dono. Una condotta solidale che rende tutti noi protagonisti capaci di fare il primo passo. Cambiamo argomento, ora parliamo di Alfonsino, startup del food delivery sostenibile pensata per le piccole città. Nata a Caserta, oggi copre 300 piccoli centri abitati in 7 regioni, 950 ristoranti affiliati, 250.000 clienti attivi, con un piano di sviluppo ambizioso ma soprattutto una politica sui rider molto diversa da quella dei grandi player del settore, come ci ha raccontato il CFO Valerio Chiacchio. Alfonsino nasce dalla voglia di esportare un servizio che all'epoca era ad uso esclusivo dei residenti delle grandi città, come ad esempio Roma e Milano, anche in piccole città di provincia. La voglia era infatti quella di poter usufruire del food delivery e quindi di poter ordinare del cibo comodamente da casa, stando seduti sul divano tramite lo smartphone, e poterlo fare appunto dalle piccole città di provincia dalle quali tutti proveniamo. Alfonsino infatti nasce nella città di Caserta a fine del 2016 e poi successivamente, vedendo che comunque il sistema funzionava, la gente rispondeva, i ristoranti erano un servizio che faceva appeal, che faceva gola, che piaceva, pian piano abbiamo iniziato a strutturarci una vera e propria startup e abbiamo iniziato ad aprire le nostre piccole città. Il modello di servizio oggettivamente si è rivelato vincente e grazie a questa cosa siamo riusciti appunto a crearci la nostra piccola nicchia di mercato, grazie alla quale oggi siamo presenti in 7 regioni italiane, circa 300 comuni, avendo come unico punto di riferimento appunto il piccolo centro, ovvero sia comuni italiani al di sotto dei 200.000 abitanti. In generale crediamo che a prescindere dal piccolo centro meno, l'approccio con il rider sia un aspetto fondamentale. Siamo una società basata principalmente su digital, ma l'ultimo miglio del nostro modello di servizio viene comunque realizzato dal rider. Quando la merce arriva a casa del cliente, in quel momento il cliente non ha di fronte me, i miei soci, piuttosto che il logo di Alfonsino, ma esclusivamente il rider. E quindi è giusto cercare di impostare un rapporto quanto più tutelante possibile per i nostri rider, anche per quello che può essere appunto un fattore di successo per l'azienda. Per questo motivo, infatti, noi abbiamo deciso di attuare una serie di, definiamole, tutele che sono tipiche del rapporto di lavoro subordinato, cercando appunto di applicarle in un modello che fosse economicamente sostenibile, che è quello appunto tipicamente del lavoro autonomo, così come viene appunto utilizzato da tutti i nostri competitor. Ed ecco perché ad esempio noi, nel momento in cui sottoscriviamo un regolare contratto di lavoro con i nostri rider, gli stiamo facendo firmare un contratto, ma facciamo anche una trasmissione agli enti di competenza mediante il modello Unilab, quindi gli versiamo i contributi IMSS mese per mese ogni qualvolta stacchiamo un cedolino, proprio perché appunto i nostri rider non devono emettere la fattura e quindi non devono avere anche le noie burocratiche e fiscali di dover fare una dichiarazione di redditi, versare le tasse, fare le fatture eccetera, ma siamo noi che gli facciamo il cedolino mensile, quindi gli versiamo i contributi IMSS, gli paghiamo la copertura assicurativa dell'INAIL e a fine anno ricevono una regolare certificazione unica e quindi, a meno che non percepiscono altre fonti di reddito, non hanno neanche bisogno di rivolgersi a un commercialista per fare la dichiarazione di redditi. A fianco a questo abbiamo inserito un'altra serie di tutele che secondo noi sono fondamentali ed ecco perché appunto il nostro rider non deve acquistare il kit per poter consegnare la merce, quindi gli diamo tutta una dotazione, lo zaino, il giubbino, la felpa, la t-shirt e quant'altro. E inoltre siamo consapevoli che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un lavoretto e per questo motivo facciamo dei pagamenti settimanali ai nostri rider, proprio perché sappiamo l'importanza, ora più che mai in questo momento di crisi che stiamo attraversando per via del Covid, di ricevere appunto in maniera puntuale quelli che sono i compensi maturati, quindi non pagamenti mensili ma bensì pagamenti settimanali. Nel contesto dei piccoli centri, che riscontro avete avuto? Nei piccoli centri, secondo il nostro punto di vista, c'è un potenziale enorme. In Italia ad oggi il delivery, nonostante sia ormai un fenomeno diffuso, comunque ha ancora degli ampissimi margini di crescita, tanto nei piccoli centri quanto nelle metropoli. Noi ci siamo costruiti un modello di servizio adatto al piccolo centro e questo ci ha premiato, tant'è vero che sono sempre più i ristoranti che vogliono aderire alla nostra filosofia di delivery, quindi al delivery di piccoli centri sostenibile. Ad oggi siamo presenti soltanto in 7 regioni, vorremmo provare a conquistare tramite questa filosofia tutto lo stivale. Sicuramente nel prossimo biennio ci aspetta un piano di espansione abbastanza impegnativo, ma che vogliamo affrontare con la consapevolezza di potercela fare. I gave my sister a really terrible haircut. What if I'm on the naughty list? Relax. After this year, Tesco says there is no naughty list. Nessuna lista dei cattivi. Quest'anno siamo stati tutti più che buoni. Questo è il messaggio divertente ed efficace che la grande catena di supermercati inglese Tesco ha scelto di lanciare con il suo spot di Natale, molto riuscito. Nella seconda parte passeremo in rassegna gli spot più belli di questo Natale, mai così importanti per l'anno zero dei consumi che stiamo attraversando. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, restate con noi. No. Essere e avere. È già arrivato Natale. Ecco perché sono tutti così buoni. E va bene, va. Buon Natale. Focus sui trend. Ogni anno le campagne e gli spot di Natale fanno notizia, un po' perché la comunicazione di un brand in questo periodo, è quella più importante dell'anno, un po' perché per i creativi questi spot sono una sfida all'ultima idea e poi perché riflettono necessariamente l'anno che vanno a chiudere. Quest'anno quindi, visto il contesto, fanno più notizia degli altri anni, ecco perché abbiamo voluto analizzarli insieme a Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, ben trovata. Un caro saluto a te e a tutti quanti. Partiamo da una campagna che va al cuore e al protagonista del periodo. Di cosa si tratta? Una campagna che porta Babbo Natale al centro. Ecco che Visit Finland, l'ente del turismo della Finlandia, ha lanciato questa campagna che si chiama proprio Say It with Santa, quindi dillo con Santa Claus, il nome che al nord danno al nostro Babbo Natale. Praticamente si invitano le persone, e questo è stato per tutto il mese di novembre, a inviare un messaggio per rallegrare un amico all'estero o qualcuno che non si vede da tempo, trasmettendo un proprio affetto, un proprio pensiero. Ecco, una classica letterina, un messaggio diretto a Babbo Natale, ovviamente attraverso i canali di Visit Finland, che ha aperto un sito apposito con il nome della campagna. Ecco che proprio in questi prossimi giorni Babbo Natale elaborerà e selezionerà circa 80 di questi messaggi, realizzando dei video personalizzati che da domani 7 dicembre saranno consultabili nel canale YouTube, esattamente, per poi avere altri appuntamenti. L'11 dicembre alle 7 di sera sarà anche possibile incontrarlo in diretta, anche con sessioni private one to one. Ecco, è ovviamente un messaggio per poi rilanciare ovviamente una terra, un territorio dove la leggenda vuole che dimori nel grande nord Babbo Natale, però è anche un modo di unire le persone in un momento dell'anno così particolare, in un anno altrettanto particolare. Passiamo al brand che, per così dire, ha inventato l'iconografia di consumo del Natale. Ogni anno il suo spot è molto atteso, ovviamente Coca-Cola. Sì, con Coca-Cola ritroviamo il messaggio diretto a Babbo Natale, che questa volta è una bambina che consegna al proprio padre, in partenza per un viaggio di lavoro lontano in una piattaforma in alto mare, con la richiesta di consegnarlo appunto a Babbo Natale. Il papà si scorda e, ripensando alla promessa fatta, inizia quindi un viaggio rocambolesco per consegnarlo direttamente a casa di Santa Claus. È uno spot, ma con una qualità cinematografica molto alta, diretto da un regista neozelandese, Taika Waititi, che quest'anno a febbraio ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura con Jojo Rabbit, in un viaggio che, dopo aver verificato che Santa Claus è fuori casa per Natale, ritorna al punto di partenza. Ecco, quindi ritornare a un punto di partenza con una sorpresa, anche un po' cambiati dal viaggio, forse chissà era proprio lì che si doveva tornare, perché in effetti il regalo più grande è poter tornare a casa. Il messaggio era questo, che le persone care possano tornare a casa, regalo più desiderato. Altro brand cult che sul periodo costruisce tra l'altro una quota importante delle proprie vendite, perché parliamo di giocattoli, con Lego. Lego quest'anno riprende e rilancia un messaggio di una campagna già lanciata nel 2019. Ricostruiamo un nuovo mondo, ora ancora più, diciamo, forte. E quindi sulle note di What a Wonderful World di Louis Armstrong lancia questo video, come sempre molto divertente, dove la meraviglia della possibilità della costruzione creativa, diciamo così, è nelle mani dei bambini. Quindi questo ricostruire il mondo è un modo di giocare, è un modo di pensare, ma anche un modo di guidare un marchio, diciamo, avendo un impatto positivo sui bambini, sul pianeta e sul gioco. Quindi è un invito un po' per tutti, una filosofia. Siamo alla grande distribuzione. In Italia meno, ma nel resto del mondo, soprattutto Gran Bretagna e Stati Uniti, gli spot dei grandi magazzini, delle catene di supermercati, dei department stores sono molto attesi. In Inghilterra anche quest'anno ha fatto notizia John Lewis, lo spot è diventato subito virale, lo trovate insieme agli altri sulla nostra pagina Facebook. Noi però, Sabrina, ne abbiamo scelto un altro, è di Tesco e ha un messaggio molto particolare, raccontaci. Tesco lancia una campagna che si intitola No Naughty List, cioè nessuna lista per cattivi quest'anno. È stato un anno particolare, tutti abbiamo avuto dei pensieri e quindi adesso è ora di gratificarci. Non lanciano moralismi o buonismi di sorta natalizi, tutti quanti siamo stati magari un po' scorretti, abbiamo comprato troppa carta igienica lasciando gli scaffali del supermercato vuoti per altri, abbiamo mancato, come dire, la giusta etichetta nelle nostre videochiamate o altro ancora. Non importa, chiunque ha il suo dark side, se vogliamo. E l'invito quindi è quello di entrare, di gustarsi il Natale, di sentire che in qualche modo ce lo meritiamo, possiamo celebrare, ecco, al di là di tutte le separazioni morali o giudizi di merito. Chiudiamo con la bellissima campagna civica, perché si rifà a WWF. Parliamo di WWF e di come affrontano il tema della casa, la casa per gli animali selvatici. Il messaggio è: noi tutti saremmo persi senza una casa, proteggiamola loro. E in questo caso si riferiscono agli elefanti. Ovviamente il 2020 è stato un anno complesso per tutti, ma abbiamo potuto constatare come è stato diffuso e trasversale l'apprezzamento e l'attenzione verso la natura, così come un'importanza dell'ambiente domestico, l'attenzione alla casa, il vissuto che abbiamo avuto nelle case. Ecco, questi due aspetti vengono rilanciati dal WWF per portare l'attenzione agli animali, in questo caso gli elefanti, che hanno un habitat a rischio. E addirittura negli ultimi 30 anni circa il 50% dell'habitat naturale degli elefanti è venuto meno. Con l'idea di adottare un elefante non si vuole soltanto proteggere la specie, ovviamente sì, ma anche aiutare a sviluppare soluzioni affinché le persone possano vivere in sicurezza insieme agli elefanti e trarre vantaggio anche da questo sforzo di conservazione. Quindi pensare all'ambiente come una casa degli animali, ma anche una casa di tutti. Ci sono dei dati incredibili. Nell'ultimo secolo circa il 90% degli elefanti africani sono scomparsi. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. Grazie a te, un saluto, ciao. Il consumautore. Partiamo da un libro per la riflessione finale in compagnia di Francesco Morace. Buonasera Francesco, raccontaci. Buonasera Maria Luisa. Io credo che Luciano Floridi sia in questo momento un personaggio molto ascoltato, docente di filosofia ad Oxford, ha scritto un libro che considero molto interessante, che ha come titolo Il verde e il blu, e che è l'incontro virtuoso possibile tra politiche verdi della sostenibilità, l'economia circolare, e le politiche blu, e cioè l'economia digitale e dell'informazione. Luciano Floridi, lo ricordiamo, ha coniato molte parole che poi sono diventate di uso comune: infosfera, è stato tra i primi a definire proprio la globalità dei contenuti e delle informazioni a cui siamo sottoposti, e on life, anche tutta la dimensione di scambio, di osmosi tra il digitale e il fisico. Questo verde e blu, questa nuova alleanza appunto tra sostenibilità e digitalizzazione, in cosa si concretizza? Ecco, un'altra parola, un'espressione anzi chiave che mi ha colpito, secondo me potrebbe diventare un po' come l'on life, una formula per i prossimi anni, è trust universale. Cioè, dice Floridi, dall'idea di contratto sociale, che è un qualcosa che avviene solo tra gli uomini, tra gli umani, dobbiamo cominciare a ragionare invece su un trust universale in cui il patto riguarda anche il mondo animale, il mondo vegetale, cioè una responsabilità più ampia rispetto al pianeta e rispetto anche a dinamiche che non sono solo accordi tra gli uomini e tra le donne. Questo mi è sembrato molto forte, molto vicino al nostro paradigma del trust and share, no? L'idea del condividere partendo da un nuovo trust. L'altra cosa molto interessante che lui dice, parla di una dignità umana eccentrica, cioè legata non solo al presente, ma sia al passato che al futuro, e cioè dobbiamo prenderci cura di ciò che ereditiamo, abbiamo una responsabilità nei confronti di chi ci ha trasferito magari i valori che oggi noi utilizziamo per vivere meglio, ma abbiamo anche una responsabilità sulle generazioni future. Ecco che allora sia la sostenibilità che la digitalizzazione vengono inserite in una visione che è davvero una visione filosofica più ampia, in cui conta il valore della reciprocità, sia nel presente che nel passato che nel futuro. Questa alleanza e questa dimensione digitale al servizio in qualche modo della sostenibilità come abilitatore, pensiamo a tutto il mondo dei dati, come dire, può anche smussare certe posizioni più critiche, può servire appunto a democratizzare anche il processo di digitalizzazione. Assolutamente sì, e infatti Floridi, appunto da filosofo dell'etica, ragiona anche proprio su questa possibilità di definire delle nuove regole. Tra l'altro lui lavora nella commissione che si dedica alla privacy in Europa e quindi fornisce una sorta di ponte anche tra gli apocalittici e gli integrati, e come sai questo per noi è molto importante. Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, a domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.